www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Ieri ero in macchina e sono entrata in un parcheggio. Cioè, pensavo che fosse un parcheggio e... Era la metro? Sì. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich, che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. It is later than you. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli sembra regnare una calma sospetta, Kappa e Drago prendono accordi poco leciti con il pollo in sbattimento. Allora, non dico se sigarette le volete o no? Sì, sì, sì. No, perché sono sigarette vere queste qui. Meno male, eh. Però, solo pagamento in anticipo, eh. Sembra giusto. Cosa? Pagamento in sì, anticipo? Sì, dai, Kappa. Perché? Perché è importante smettere con le sigarette di paglia, poi pago in anticipo finché vuoi. Ma scusa, tu dove le procuri tu le sigarette vere? Tu non ti preoccupare, io mi aggancio qua dentro, no? Ah, lui è suo aggancio, capito? Sì, li aggancio, no? Con la Sacra Cresta Unita, eh. Ma cosa? La Sacra Cresta Unita. Ma cos'è? Sono i polli pugliesi, no? Sì, la Sacra certo. Cresta Unita. Però a me, sinceramente, non interessa la provenienza della roba, basta che sia buona. Senso etico zero. Davanti alla sostanza non esiste senso etico. Ah, la sostanza è tutto. La sostanza è buona. La sostanza è bella. Uè, ma mi sembrate due polli tossici, eh? Perché cosa siamo, scusa? Siamo due tabagisti. Come Baudelaire. Come Baudelaire, no, sì. Io invece tratto solo con i contrabbandieri, come Rimbaud. Come Rimbaud, Attento però a non trovare un Verlaine che vuole insegnarti certe cose che sa solo lui. Che sì, magari... Chi? Tom Verlaine di televisione? No, Tom Verlaine. Ma sì, quello lì alto, no? Quello che cantava tutto storto, con la chitarra tutta fastidiosa. No, eh? 70. No, non è Tom Verlaine, è Paul Verlaine. Quello coi baffoni, triste e pederasta. No, pederasta no, A mezzanotte sotto al mio balcone. Milano in via Monte Asolon. Ogni sera ci sono due che si amano. Un Amtrans e l'altro al macchino. Sul cofano si amano. La fabbrica dei polli. Che sigarette di contrabbando, sigarette vere. Drago, noi dobbiamo smettere di fumare, altro che. Tu ogni tanto ti svegli e ti viene in mente che devi smettere di fumare. Anzi, che dobbiamo smettere, metti anche meno. Ma certo, certo, ormai fumare è diventato una seccatura. Dai, gli amici ti fanno fumare sul balcone. Vabbè, lo so. Nei bar ti fanno andare sul marciapiede. Qui in fabbrica chiudono un occhio, ma normalmente il fumatore è trattato come un malato, un emarginato. Quindi questo non è bello, lo so. No, non è bello, però è così. E questo dovrebbe spingere i fumatori a smettere. Sì, però il tabacco, scusa, fa parte della nostra cultura. Non è con una legge che si può risolvere un problema così, no? Quindi, voglio dire... In effetti, i miei avi solevano fiutare il tabacco, non fumarlo. Stai dicendo. E fiutandolo non davano fastidio a nessuno. Sì, certi sputi, però, no? Però, scusa, cosa vuol dire i tuoi avi, Kappa? Il tuo bisnonno di origine... Esattamente. Egli faceva lunghe passeggiate... Ma... Per le tenute di famiglia. Perché parli così di colpo? E portava con sé la tabacchiera. Trovava un angolo suggestivo e si fermava a fiutare una presa di tabacco. Hai ragione, Kappa, solo che se fai un discorso così, ti dicono subito che hai una visione edulcorata del problema, no? Una visione romantica. Ma infatti, lo sai che io, in fondo, sono un romantico. Camicia bianca aperta sul petto. Lo stesso. Vino rosso. Aragosta. Caviale! bastone da passeggio e tabacco da fiutare. Ma Cappa, adesso calmati, cosa... Ah, il tabacco, Cappa. Erbacea annuale delle solanacee del genere nicotiana o nicoziana, a seconda della scuola di pensiero. Ma Cappa, ti stai ritrasformando ne... Il marchese! Ah! Vieni, Poncio! Ma chi è Poncio? Sei tu! Sei il mio biografo! Presto! Vieni, Poncio! Ma chi? Inoltrati con me in questo groviglio di mangrovie! Se procediamo verso est, raggiungeremo le mie piantagioni di tabacco! Ma dove siamo? Te l'ho detto! Nelle mie piantagioni di tabacco! Ma cosa ci facciamo qua? Non lo so, che importa! Oh. Ma cosa? Oh. Senti il profumo inebriante delle solanacee? Ma veramente sento solo puzza di fabbrica di polli. In effetti. Cappa, lascia perdere i tuoi avi, le solanacee. Il tabacco tu l'hai sempre fumato, mai fiutato. Non cominciare adesso, che oltretutto il pollo ci porterà delle sigarette, mica del tabacco da fiuto, eh. Ah, la grettezza delle persone non nobili. D'altra parte, se non fosse così, non ci sarebbe distinzione tra noi e loro. E finirebbe tutto nell'anarchia. Sono il pollo VIP, il very important pollo. Dico assolutamente sì, piuttosto che adoro essere un pollo. Sono il pollo VIP e parlo come un pollo. La fabbrica di polli. Palastri, oi, queste sono le secche. Fatemi una buona fumata. Oh, che bello. Io tossisco già. Adesso, no, tossisci perché, anticipo il perfetto. Perché sei andato avanti a fumare quelle schifezze per tutto sto tempo. Adesso finalmente veri pacchetti di vere sigarette. Sì, con vere scritte portasfiga, tipo il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno. Vedi? Vabbè, è vero, Ma credete che siano tutte panne? No, no, sicuramente no. Se uno fuma, fuma. Guardate che ne muoiono ogni anno per il fumo. Sì, vabbè, ma dai, Polo, ti sei mai chiesto come fanno a sapere con esattezza quanta gente è morta a causa del fumo? Beh, basta che leggi le cifre. Ma è impossibile, sì. Ma dai, nessuno muore per aver fumato una sigaretta, quindi... al massimo si muore di infarto, di qualche altra malattia che forse è causata dal fumo, quindi sai. Eh sì, forse, voglio dire. Dai, le cifre comprendono anche i morti per fumo passivo. È già difficile determinare se uno è morto perché fumava. Figurati uno che non fumava, ma che magari lavorava in un bar quando ancora si poteva fumare. Allora lo so, Drago, le statistiche sono sempre un po' cialtronesche. Ma non è nemmeno bello, scusa, che adesso tu ti metta qui a fare comizi contro quelli che pensano al tuo bene, alla tua salute. Quali comizi? Io dico solo che da quando ci sono le leggi antifumo si dice che l'incidenza del cancro ai polmoni è più che raddoppiata. Ma chi lo dice? Lo dice Joy Faulkner, che è una donna neozelandese che ha fondato un'associazione che si chiama Smokers of the World Unite, cioè fumatori di tutto il mondo unitevi. Vabbè, ma questo è terrorismo, Questa neozelandese qui, e poi chi la conosce? Questa potrebbe anche scrivere la prima cosa che le viene in mente. Io dico solo che è difficile credere alle cifre ufficiali, tutto lì, ma intendiamoci, non perché io non ci creda dal punto di vista ideologico, ma proprio perché mi sembra impossibile dire con certezza che un tizio è morto perché fumava. E prima o poi si muore tutti, sia che fumi, sia che non fumi, muori. È morto. Evviva! Cosa? Che allegria, Drago. L'hai dovuto dire, prima o poi si muore tutti. No, sai, perché ogni tanto io me ne dimentico, anche il pollo. Meno male che ci sei tu che ce lo ricordi. Vabbè, hai da accendere. Che cosa succederà adesso? Il contrabbando di sigarette attirerà su di sé l'ira delle autorità della fabbrica? E quali sarebbero queste autorità? Che fine ha fatto l'amministratore delegato? Io non faccio l'amministratore delegato, io sono amministratore delegato. E che ne è della disputa sul 13° apostolo? Non c'è tempo per trattare tutti questi argomenti, perciò provate a sintonizzarvi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo incombente allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude. Fabbrica di Polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen.